Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, se le borse sono abbastanza tranquille, meno 0,1 Milano e anche Parigi, più 0,4 Francoforte, invariata l'America, meno 0,2 Londra, dicevo, se le borse sono abbastanza tranquille, altrettanto non si può dire né per l'oro né per i mercati dei cambi. Perché? Ennesimo nuovo record dell'oro a 1379 dollari l'oncia e poi ribattuto, questo all'alba praticamente, poi ribattuto in mattinata a 1387,35 dollari l'oncia da un lato, dall'altro di nuovo il dollaro in picchiata e quindi di nuovo l'euro molto forte, quota quasi 1,41. E soprattutto il massimo storico del franco svizzero sul dollaro, arrivato a quota, il cambio tra il franco svizzero e il dollaro è arrivato a 0,9464 e praticamente lo yuan invece ha raggiunto quota 6,65. Questo è interessante perché il dollaro è così impicchiata che anche nei confronti della valuta cinese si sta indebolendo. Praticamente il livello a quota 6,65 non si era mai visto dal 1993, da quando praticamente la Cina ha introdotto i cambi di mercato, i cambi valutari di mercato, non solo più quelli ufficiali, come era nella prima versione del regime comunista cinese. Di questo parleremo, ma parleremo anche del nostro Consiglio dei Ministri. Il ministro Tremonti ha illustrato alcuni aspetti della finanziaria, già c'è molta preoccupazione, e come ricordava anche il nostro GR, il ministro Galan ha detto è un disastro, non c'è un euro per i ministeri. Vedremo, di questo parleremo in apertura. Poi ci occuperemo in apertura faremo il via libera che è arrivato al prossimo collocamento importante, Enel Green Power, via libera della Consob, e cercheremo di capire anche quali siano i margini di questo collocamento in borsa per la quotazione appunto di Enel Green Power, che è la società del gruppo Enel dedicata alla produzione di energia da fonti, solo dalle fonti rinnovabili. Andiamo avanti su questo, perché poi nella seconda ora del programma parleremo della piccola industria, dei nostri piccoli imprenditori. Domani si riuniscono in assemblea e in convegno, per meglio dire, scusate, a Prato, domani e poi sabato, il convegno annuale della piccola industria e di Confindustria. Da un lato l'orgoglio di aver saputo reggere alla crisi, la parte più virulenta della crisi nel 2008, dall'altra i timori di non reggere alla nuova sfida dei mercati internazionali, mercati distanti che necessitano di grossi investimenti, di reti lunghe, tutti elementi che non appartengono alle caratteristiche dei piccoli imprenditori. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Manca il dollaro, mi fate notare, avete ragione, come quasi sempre avviene, 83,52 dollari al barile. Il presidente dell'OPEC ha annunciato che l'OPEC lascerà invariata la produzione di petrolio dei paesi aderenti al cartello. In questo caso il presidente dell'OPEC è il ministro del petrolio dell'Ecuador, Wilson Pastor. E se sui mercati si continuano a registrare tensioni sul dollaro e soprattutto anche sull'oro, tra l'altro mi chiedete da quant'è che l'euro non andava a quota 1,41 sul dollaro, da 9 mesi a questa parte. Con lo yen invece la debolezza del dollaro è un record, da 15 anni che lo yen non era così forte sul dollaro, e tutto perché il mercato si attende nuovi, dopo la dichiarazione di ieri della Federal Reserve, nuovi interventi espansivi, cioè a sostegno dell'economia da parte della banca centrale americana. Tra l'altro la Banca Centrale Americana non può toccare i tassi, può stampare moneta e quindi imbarcare, rischiare di imbarcare inflazione, però insomma, e comprare con questa moneta obbligazioni del Tesoro americano. I sussidi di disoccupazione sono aumentati più delle attese in America, chiaramente a 462.000 complessivamente, gli analisti si attendevano 445.000. La Banca Centrale Europea invece in Europa fa sapere che la crescita dell'area euro è moderata, la dinamica è positiva. E poi permangono timori riguardo al riemergere di tensioni nei mercati finanziari. E sempre la BCE che lo dice, e quindi non vi è nessun motivo, cioè non c'è nessuna traccia nelle oltre 100 pagine del bollettino di ottobre di un possibile e graduale ritiro delle misure di emergenza adottate durante la crisi. Invece slitta al Parlamento Europeo il voto sulle nuove regole in materia di hedge fund, di fondi altamente speculativi e fondi alternativi di investimento. Buoni dati invece arrivano dalla Germania, che chiuderà il 2010, lo dice il centro studi tedesco, con un rialzo del PIL del 3,5%, un vero record. Pensate che la stima precedente era dell'1,5%, l'Italia chiuderà con un più 1%, e quindi il 3,5% per la Germania, rallentamento nel 2011 invece più 2%. Poi la Germania, insomma, l'anno prossimo avrà meno di 3 milioni di disoccupati, che è il livello, sarà il livello più basso mai registrato dal 1992. Eh sì, la Germania ha investito nell'economia 100 miliardi, poteva farlo perché non ha i nostri problemi di deficit e di debito, è un paese in cui le grandi imprese sono molto presenti e sono molto esportatrici. Va in giro a stringere affari, si occupa, un paese che si occupa di cose serie, diciamo. Allora, ancora avete ragione nel dire non è l'oro che acquista valore, è il dollaro che ne perde. Sì, insomma, la stessa faccia, sono due facce della stessa medaglia, nel senso che il continuo indebolimento del dollaro fa spostare gli investimenti dal dollaro, moneta di riferimento e moneta ritenuta sicura, all'oro. Ma arriviamo, diciamo, ad alcuni passaggi dell'intervento del ministro Tremonti oggi all'Aspen Institute, perché ha detto ci sono problemi, la crisi economica e i conseguenti cambiamenti in atto pongono in alcune parti d'Europa anche problemi di tutela democratica, ma il vecchio continente d'Europa sta reagendo. Buone notizie invece sulla cassa integrazione, perché le imprese italiane nei primi 7 mesi del 2010 hanno utilizzato solo il 48% delle ore di cassa integrazione che avevano formalmente chiesto e che erano state autorizzate dall'INPS. Ne hanno chieste quindi per 100, ma ne hanno utilizzate per 48. E era chiaro che c'era un timore che la crisi continuasse in maniera ancora più forte nel 2010, per fortuna così non è stato, e quindi il numero di ore utilizzate è stato la metà rispetto alle richieste, però continua il ricorso alla cassa integrazione nello stabilimento Fiat di Mirafiori. La carrozzeria si fermerà infatti 3 settimane, dal 15 novembre al 6 dicembre, e il provvedimento interesserà tutti i 5.400 lavoratori, ad eccezione delle giornate del 22-23 novembre, quando rientreranno al lavoro gli addetti alle linee di Idea, Musa, Punto Classic e Mito. Molti di voi vogliono sapere se è vero che si taglia lo stipendio il governatore della Banca d'Italia. Sì, è vero. La Banca d'Italia si appresta a varare misure di austerità, per cui il governatore taglierà del 10% il suo stipendio. Non solo suo, di tutto il direttivo di Banca d'Italia. Ancora buono il giudizio sulla tenuta dei conti pubblici italiani da parte del direttore esecutivo italiano presso il Fondo Monetario, Arrigo Sadun, l'ho detto oggi all'agenzia ANSA, e sostenendo che il federalismo fiscale può anche aprire delle opportunità. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Arriviamo fra un attimo alla legge di stabilità, come si chiama ormai la legge finanziaria. Prima però occupiamoci di matricole, matricole in borsa, non ce ne sono tante in questo periodo, sta per sbarcarne forse la più importante dell'anno. Sbarcherà infatti Enel Green Power, che è appunto la società del gruppo Enel dedicata alla produzione di energia dalle sole fonti rinnovabili, capacità produttiva di 21 miliardi di kilowattora. Quanto sono? Sono i consumi di 8 milioni di famiglie italiane, quindi non poca roba, che evitano così l'emissione di 15 mila tonnellate di CO2. Sono prodotti questi 21 miliardi di kilowattora ogni anno con un mix tra eolico, solare, idroelettrico, geotermico e biomassa. E il valore della società è valutato intorno ai 10 miliardi di euro. Entro il 2014 Enel intende investire 5 miliardi di euro prevalentemente nel settore eolico. Quanto ne verrà collocato e anche, insomma, i tempi del collocamento con il dottor Luca Torchia, responsabile Investor Relations del gruppo Enel. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, poi ne parleremo anche con il suo amministratore delegato, il suo presidente, però io volevo capire la parte più operativa con lei. Il collocamento quando avverrà e soprattutto quanta parte di Green Power verrà collocata? Allora, il collocamento partirà lunedì prossimo, il 18 di ottobre, e si protrarrà per 2 settimane, quindi si chiuderà il 29 di ottobre. Noi intendiamo collocare in borsa una quota minoritaria e non superiore al 33% del suo capitale sociale. 33%. Quindi un valore, avete fatto una stima di quanto potreste raccogliere? Guardi, noi pensiamo di raccogliere da questo collocamento 3 miliardi di euro, però poi mi faccia dire, saremo più precisi quando uscirà la forchetta di prezzo domani e il prezzo finale che verrà reso noto il prossimo 29 ottobre. E infatti, perché la forchetta esce domani, no? Quindi l'orientamento su quale dovrebbe essere il prezzo. Poi il prezzo finale dell'azione uscirà? Uscirà il 29 ottobre, ultimo giorno di offerta. Ultimo giorno di offerta, perfetto, quindi si potrà comprare tra una forchetta. Avete un'idea di questa forchetta senza essere precisi? No, guardi, ancora no. In questo momento le banche che ci seguono nel collocamento stanno ultimando l'operazione di pre-marketing. A conclusione di questa attività verranno da noi, relazioneranno per rendere nota questa forchetta. Ancora, per quello che riguarda invece il collocamento, come saranno vendute queste azioni? Cioè per blocchi, pacchetti minimi, perché è aperto a tutti, non è solo per gli istituzionali, giusto? Sì, guardi, questa è un'offerta, intanto vi faccia dire con orgoglio che è l'offerta più grande mai effettuata in Europa e in Italia dal 2007, ed è un'offerta che si articola su una parte istituzionale mondiale e su un'offerta ai piccoli risparmiatori in Italia e in Spagna. Il lotto minimo di queste azioni ancora non è noto, verrà reso noto nei prossimi giorni, ma i piccoli risparmiatori dovranno recarsi presso lo sportello bancario di preferenza per chiedere di sottoscrivere le azioni Enel Green Power. In Spagna perché voi controllate Endesa? In Spagna perché la Spagna è il nostro mercato di riferimento strategico, che è diventato tale dopo l'acquisizione di Endesa. Ancora, che ne farete di questi soldi, per quello che ci può dire? Ma guardi, è molto semplice, fanno parte della strategia di riduzione dell'indebitamento finanziario netto del gruppo. Il Enel Green Power fa parte di un piano di dismissione di asset che abbiamo indicato già ai nostri investitori e agli azionisti, saranno interamente destinati alla riduzione dell'indebitamento finanziario netto di gruppo, che è previsto assestarsi a 45 miliardi di euro a fine anno al netto dell'effetto cambio. E quindi lo utilizzerete anche per ridurre l'indebitamento, che tra l'altro che era conseguenza anche dell'acquisizione del 100% di Endesa. In bocca al lupo, ripeto, ne parleremo con altri suoi colleghi in Enel, ma era importante annunciare, visto che è arrivata oggi via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo. Il più importante è una notizia che non sapevo, grazie per averlo precisato, il più importante collocamento dal 2007 in Europa? Esattamente, confermo. E poi un collocamento verde. Nel senso è un collocamento verde, esatto, un collocamento di una società che opera in un business che è anche sostenibile, oltre che essere molto strategico per noi. Grazie a Luca Torchi, responsabile Investor Relations di Enel. Grazie a voi, buonasera a tutti. Lo stacco musicale indica il cambio tema, e che cambio di tema, ci occupiamo adesso della legge di stabilità. Che vuol dire? La nuova finanziaria. Dopo una discussione di 30 minuti, il Consiglio dei Ministri ha approvato la finanziaria, appunto la legge di stabilità, su cui il governo ha ipotizzato il ricorso al voto di fiducia. Tempi dell'esame rapidissimi. E questo non è un dettaglio, perché poi i mal di pancia stanno arrivando. Voi sapete che l'accusa di alcuni colleghi di governo, ministro Monti, di arrivare con i suoi dati, i suoi numeri, dire questa è la cosa, grazie, arrivederci, e andarsene, l'assenza di dialettica. Tempi rapidissimi, ma le tensioni con i ministri non sono mancate. I ministri preoccupati per i possibili nuovi tagli ai budget già ridotti del 10% con la precedente manovra. Tremonti soddisfatto, ha detto discussione responsabile in Consiglio dei Ministri, una discussione così responsabile che ha permesso di approvare la legge di stabilità in soli 30 minuti. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità con il bilancio dello Stato. È un documento nuovo che riflette la nuova legge di contabilità dello Stato, che contiene la legislazione vigente, questa costituita tanto dalla finanziaria triennale quanto dalla manovra di luglio. È un documento molto tecnico e, in accordo con la legge, solo la fotografia dei conti pubblici, come sono stati costruiti nel passato e come sono proiettati sul futuro. La discussione è stata estremamente responsabile, c'è stata la unanime condivisione delle opportunità e delle difficoltà che derivano dalla finanza pubblica di un grande paese in una fase economica critica come l'Italia. Abbiamo fatto quello che si fa in altre forme, in altri modi, in tutti gli altri paesi europei, dal nord al sud, dalla Germania alla Francia, all'Inghilterra alla Spagna. In questo momento tutti i governi fanno politiche di questo tipo, naturalmente diverse secondo la struttura dei loro bilanci. Allora, questa è la versione del ministro Tremonti, appunto massima serietà, un sì unanime, in maniera un grande senso di responsabilità. Adesso vedremo se arriveranno nel pomeriggio i mal di pancia, perché uno è già arrivato, è quello di Galan, ministro dell'agricoltura, che a margine di un incontro con il collega francese Bruno Le Maire, dopo il Consiglio dei Ministri, ha detto: è una tragedia, il problema è che non ci sono soldi. Il leader del PD, Pierluigi Bersani, dice: mancano 5 miliardi di entrate, non so che scelte Tremonti si appresti a fare, ma i conti non sono a posto. Senza una vera riforma fiscale ed un meccanismo di controllo della spesa pubblica non andiamo da nessuna parte. E anche su questo è intervenuto il ministro Tremonti in conferenza stampa, perché ha annunciato che, fatta e chiusa la legge finanziaria, la legge di stabilità, adesso il governo lancerà la politica dello sviluppo. Che poi, per quanto riguarda invece il fisco, mercoledì prossimo ci sarà il primo incontro per mettere a punto la richiesta di una delega al Parlamento per la riforma fiscale. Definita la legge di stabilità, lanciamo la politica dello sviluppo. Non che non fosse parte della nostra visione, non che fosse fuori dalla discussione che in questi mesi abbiamo sviluppato, da oggi possiamo formalmente avviare la seconda fase. Non avremmo potuto farlo prima, perché avremmo deviato rispetto al protocollo europeo che prevede stabilità e sviluppo. E la prima riunione sarà più o meno, bisogna quadrare le agende, mercoledì prossimo, per cominciare a studiare lo schema di una delega sulla riforma fiscale. Convocheremo le parti sociali, poi si articolerà in tavoli tecnici, in formule adatte a un obiettivo molto ambizioso come quello di modificare il nostro sistema fiscale. Disegnato alla fine degli anni 60, non corrisponde più a un mondo che è totalmente cambiato. Credo che siamo il primo paese che imposta una grande riforma fiscale. Lo faremo con le forze sociali, con le forze politiche. Abbiamo già adesso rapporti con grandi istituzioni internazionali, chiederemo l'assistenza della Commissione europea, dell'OCSE, del Fondo monetario, avanzeremo su una visione della società che in democrazia comincia dal rapporto fiscale. Allora, chiedono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, avete nostalgia dell'attacco alla diligenza? No, siamo mica degli indiani, assolutamente no, anzi era per noi un incubo fare Focus Economia con le leggi finanziarie che entravano in Parlamento in un modo e poi venivano assaltate, smembrate, slabrate in tutti i modi, non si capiva niente. Lo ricordo come un incubo a partire, come ultimo caso, dalla legge, la prima finanziaria dell'ultimo governo Prodi. Un vero incubo. Dino Pesola è la voce di Radio 24 quando parliamo della manovra finanziaria. Buonasera. Buonasera, eccomi. Tu hai nostalgia dell'assalto alla diligenza? No, per nulla, ne ho vissute parecchie di quelle stagioni, quindi sicuramente no, però occorre dire che il ministro Tremonti in questo è stato molto abile, sì, avendo anticipato però non proprio la stata di diligenza, ma il confronto scontro politico ai decreti che poi contengono la manovra, cioè i decreti di luglio. Noi abbiamo vissuto tra maggio e luglio in effetti una fase di grande fibrillazione del governo con tutti i ministri e non solo, le regioni, gli enti locali che chiedevano un ammorbidimento dei tagli, quindi insomma non è che non c'è più tensione politica perché non c'è più quella finanziaria. Diciamo che c'è una diversa tempistica e comunque è sicuramente molto positivo che non si perdano tre mesi, così come è stato per decenni, a discutere di cose al limite anche minimali che poi nulla hanno a che fare con i veri numeri della finanza pubblica. Quindi questa è sicuramente una novità positiva. Sì, io ricordo che insomma fino a un paio d'anni fa la finanziaria arrivava in Parlamento, anzi c'era il DPF a luglio, poi la finanziaria in Parlamento a settembre e da lì partiva veramente la diligenza e l'assalto conseguente fino ad arrivare a dicembre in extremis, bisogna chiudere la finanziaria cercando appunto di scontentare il minimo numero possibile di elementi della maggioranza. Invece andiamo avanti con l'illustrazione della manovra di Tremonti, perché vedo alcuni messaggi, vabbè, alcuni contestano il fatto che non ci sono i soldi per i ministeri ma per i ministri sì, e vabbè, evitiamo il populismo, casomai diciamo che il tema dei costi della politica è un tema che è scomparso come è scomparso il governo Prodi, cioè, non se ne parla più a due anni, evidentemente era un tema rilevante solo allora. Andiamo avanti invece con quello che ha dichiarato Galan, il ministro dell'agricoltura Galan, perché insomma Dino Pesole, tutto si può dire, ma se Galan esce dal Consiglio dei Ministri e dice è una tragedia, non ci sono i soldi, vorrei capire che cosa gli ha annunciato Tremonti, però la risposta me la dai dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri SMS. ...17:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, Dino Pesole, come mai dei mal di pancia, perlomeno Galan, così forti, se poi sembra che ci sia stato tutto questo consenso? Ossia, a quanto ammonterà la manovra, quanto tagli? Ma sostanzialmente la manovra è già stata fatta, quindi il ministro Tremonti ha semplicemente esposto delle tabelle che recepiscono gli effetti della manovra che è stata già approvata a luglio, che è quella manovra che conosciamo tutti, 24,9 miliardi nel biennio. Allora si era sparsa una certa inquietudine tra i ministri, perché si era ipotizzato un ulteriore taglio rispetto a questi importi già fissati nella manovra di luglio. Tremonti al momento ha detto non è questa la sede per parlarne, e questo giustifica anche la brevità della seduta, 20 minuti, mezz'ora. Ma perché sono così preoccupati i ministri allora, se tutto è già stato fatto? Sono preoccupati perché la situazione del bilancio pubblico, così come è stata esposta da Tremonti, non consente alcuna possibilità di manovra all'interno dei vari capitoli, molto limitata, e dunque ci sono una serie di richieste, del tutto legittime peraltro. Dall'anno è uno di questi, ma c'è la Gelmini, ci sono tanti altri ministri, c'è Bondi, che hanno presentato una lunga serie lista di misure che vanno finanziate, e il ministro Tremonti ha detto adesso non se ne parla perché questa non è la sede, e se ne riparlerà probabilmente a fine anno, e qui è l'altro appuntamento importante, perché per fine anno è atteso un decreto, che a questo punto sarà un maxi decreto, che è il solito decreto mille proroghe che viene varato ogni anno, e che probabilmente quest'anno sarà ancora più corposo, perché è lì che il ministro conta di individuare quegli stanziamenti che ora non è possibile individuare. Non so inclusa, come inclusa l'università e i ricercatori, lo dico perché c'è stata una dichiarazione anche su questo. Inclusa l'università, non so bene come farà, però appunto se lui l'ha annunciato vuol dire che ha già individuato all'interno, nelle pieghe del bilancio, alcune possibilità di spostare fondi da una missione all'altra, come si chiama adesso, una volta si chiamavano capitoli. Però saranno cifre limitate, saranno cifre che non potranno eccedere un miliardo e mezzo, e poi è quella posta che normalmente i ministri dell'economia mettono in gioco ogni volta che in Parlamento si affronta l'esame della finanziaria. Mi sembra che siano cifre limitate, che non riusciranno certamente a soddisfare tutti. Però allora, no, però io devo capire una cosa. Allora, intanto rispondo a un ascoltatore che dice... lei che ha nostalgia del governo Prodi non ricorda l'aumento immediato di 3 punti fiscali, quindi di pressione fiscale sui redditi bassi? No, guardi, io non ho nostalgia per nulla se non per i miei 18 anni, neanche tanta di quella delle volte. Del governo Prodi abbiamo criticato un secondo fa la finanziaria, l'assalto alla dirigenza, per precisione però lei si sbaglia, signora. Il governo Prodi tagliò 5 punti di pressione fiscale, 3 alle imprese e 2 ai lavoratori. Per questo, ma nostalgia per il governo Prodi con quella finanziaria lì, con l'incubo di trovarsi cambiate le norme ogni giorno? Proprio no. Ancora invece più interessante è un'obiezione che arriva da altri ascoltatori. Ma come fa Tremonti a dire che d'ora in avanti adesso il governo farà, da oggi fate la legge di stabilità, lanciare la politica dello sviluppo, e poi tu ci confermi che non ci sono soldi? Questa è una domanda molto interessante. Grazie. Infatti sarebbe utile porla al Ministro, perché la riforma fiscale che annuncia sarà un cantiere molto lungo, perché lui parla appunto di una legge delega, col confronto con le parti sociali, addirittura l'assistenza della Commissione Europea, l'OCSE, il Fondo Monetario. Certamente richiederà del tempo e probabilmente anche uno stanziamento, perché una riforma fiscale vera nel nostro paese non può, a mio avviso, che... Sì, ma non penso che lo sviluppo sia legato solo alla riforma fiscale. Cioè, adesso Confindustria chiede, per esempio, ma lo chiedono anche i sindacati, ci mancherebbe, chiedono misure per lo sviluppo, significa sostanzialmente, a parte che alcune riforme sono a costo zero, ne parlavamo con alcuni nostri ospiti, se non ricordo male con il presidente di Federchimica Squinzi, cioè, insomma, riforme di semplificazione burocratica sono a costo zero, l'eliminazione dei costi impropri per le imprese sono a costo zero, tutto, però poi qualche lira serve, o per meglio dire qualche euro serve, se vuoi fare, se vuoi lanciare lo sviluppo, e se questo non è solo uno slogan. Infatti anche per la riforma fiscale in questo senso è una riforma che in qualche modo dovrà comportare uno spostamento di risorse, perché noi abbiamo obiettivamente un problema nel nostro paese, lo conosciamo, ne abbiamo parlato tante volte, c'è una pressione fiscale che in gran parte è sperequata su chi le tasse le paga per intero, abbiamo una larga fetta di evasione fiscale, dunque certamente una riforma fiscale ad ampio raggio comporta dei costi, però immagino che lo strumento della delega nell'idea di Tremonti significhi dateci del tempo, e forse col tempo arriveranno anche i soldi, speriamo. Dai, insomma, cerchiamo di mantenere un livello di serietà nel programma, insomma, sappiamo che i soldi non ci sono, la crescita c'è ma è bassa, il debito italiano va tenuto sotto controllo, ce lo chiede l'Europa, il deficit, Tremonti è stato bravo a tenere sotto controllo deficit e debito, però è inutile continuare a raccontarsi che i soldi ci sono, si dovrebbero fare riforme a costo zero, ripeto, non so benissimo che è un tema trito e ritrito, ma insomma, se non mancano i soldi almeno fai le cose che non ti costano nulla, riforme, non solo la giustizia, il traffico, grazie a Dino Peso del Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Una precisazione, attenzione, il debito italiano non è uguale a quello tedesco, magari quello che era uguale a quello tedesco era il deficit italiano l'anno scorso, 5% noi del PIL, 5% qualcosa in più, 5,3% la Germania, ma il debito che è la somma di tutti i deficit, cioè tutti i rossi che hai fatto in questi anni, più gli interessi che paghi come in banca quando vai in scoperto, beh, quel debito lì è un'altra storia, noi siamo, ci ha superato la Grecia, ecco, per fortuna, in proporzione al PIL, magari fosse come quello tedesco la borsa. Borsa oggi priva di grossissime notizie, meno 0,24% Milano, identico il calo di Parigi, meno 0,37% l'America, più 0,32% Francoforte, meno 0,3% Londra. Euro e oro a far vera notizia, o meglio dollaro a fare vera notizia, impicchiata contro lo yen, cala a livello record anche contro la valuta cinese, cala a livello di nuovo da 9 mesi non era così debole contro l'euro. Insomma, l'America sta perseguendo la sua politica di inondare il mercato di contanti, di liquidità, tenere il dollaro basso, anzi la Federal Reserve ha annunciato che continuerà così. Perché? Perché in questo modo vuole sostanzialmente garantire il rubinetto aperto perché l'economia non si fermi. È come premere sull'acceleratore se sei in salita, cioè continuare a buttare fuori, in questo caso, benzina. E cosa capita sui mercati? Capita che insomma tutte le valute si rafforzano sul dollaro e l'oro va a nuovi record. Livia Zancaner, dell'agenzia di stampa Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, veniamo alla borsa nostra. Dopo l'anticipazione che ha avuto anche Radio Corriere, Radio 24 questa mattina su Telecom Argentina, come si è mossa Telecom Italia? Sì, allora il titolo ha guadagnato l'1,5%. Appunto nella giornata in cui è stato il via libera dall'autorità argentina al consolidamento della partecipazione in Telecom Argentina. Allora, secondo gli analisti, allora la reazione mostrata oggi dal titolo è stata più che altro una reazione di tipo emotivo. La notizia è infatti assolutamente positiva perché permette a Telecom di uscire dalla situazione di stallo in Argentina e di consolidare comunque degli asset che mostrano una crescita importante. A livello di valutazione però sui fondamentali l'impatto è minimo, anche perché la quota detenuta indirettamente da Telecom in Telecom Argentina sale di poco, cioè da un 14% a un 16% circa, e Telecom in questo modo può consolidare Telecom Argentina e ridurre quindi il rapporto tra margine operativo lordo e debito. Ancora vogliono sapere di Sara. Vedo un messaggio bellissimo di uno che scrive: voi che siete la radio degli evasori, perché è ovvio che non parliate mai della lotta vera contro gli evasori, quella che ha fatto Visco. Allora, beh, non so chi sia la radio degli evasori, qua siamo tutti assunti, paghiamo in busta paga. Detto ciò, abbiamo fatto ieri l'ultima puntata sul contrasto all'evasione fiscale, era l'apertura del Sole 24 Ore di ieri, abbiamo fatto decine di puntate sull'evasione fiscale, abbiamo elogiato Visco, abbiamo ricordato che fu un errore da parte di Tremonti subito levare alcuni elementi che dagli assegni ad altro che connotavano l'azione di Visco, alcuni di questi Tremonti li ha reintrodotti. Magari avete perso ha perso il signore qualche puntata. Tu, Livia Zancaner, noto evasore fiscale, dimmi a questo punto che è successo su Saras, più 3,82%. Allora, su Saras praticamente ha beneficiato dell'interesse espresso dal gruppo Socar di rilevare una raffineria in Italia da 15 milioni di tonnellate di capacità. Siccome le uniche due raffinerie in Italia che hanno una dimensione simile sono Sarroch, che è della Sara, sei priolo della Erg, le azioni hanno appunto beneficiato dell'annuncio. Inoltre questa mattina gli analisti hanno confermato raccomandazione positiva sul titolo, e quindi le azioni hanno chiuso in rialzo del 3,8% circa. Ancora, per quello che riguarda i titoli, Saras, adesso abbiamo chiuso, il peggior titolo la Lazio, vabbè, meno 7% con quello che ha corso, Sabaf più 6,4% oggi in borsa, tra l'altro Carrefour più 5,20%, Cell Therapeutics più 5%, Stefanel più 5%, Green Vision più 3,90%. Torniamo ai titoli più grossi, Parmalat più 2%, Buzzi Unicem in più 1,6%, 1,5% appunto Telecom Italia, Autogrill più 1,3%, Pirelli più 1%. Su Pirelli ci sono anche delle indicazioni sulle stime di fine d'anno. Sì, infatti oggi il titolo ha beneficiato del rialzo delle stime da parte della società. Il gruppo infatti ha alzato le previsioni sui ricavi oltre 4,9 miliardi, mentre la forchetta precedente era compresa tra 4,8 e 4,9 miliardi. Inoltre il gruppo si aspetta un indebitamento netto sotto i 700 milioni. Sono state positive anche le anticipazioni sui conti dei 9 mesi, che si sono chiusi con un fatturato a livello consolidato in crescita del 19% a circa 3,7 miliardi di euro. Ancora sui titoli, per quello che riguarda Fiat, volete sapere di Fiat? Fiat oggi ha perso l'1,5%, Bulgari la peggiore, meno 2,2%, cos'è, è finito l'effetto Louis Vuitton? Sì, in realtà sì, nel senso che Bulgari nelle ultime tre sedute ha guadagnato oltre l'11%, appunto aspettando i risultati della concorrente francese questa mattina, che ha annunciato poi un ricavi nel terzo trimestre in crescita del 23% a 5,1 miliardi di dollari, quindi in realtà oggi sono i realizzi che hanno colpito il titolo della società italiana, che ha perso il 2,2% circa. Ancora sui titoli, tra chi ha perso oggi segnaliamo Prismian meno 1,6, Unipol meno 1,5 come Fiat, appunto Popolare Milano meno 1,3 come il Banco Popolare, Geox e Unicredito perdono l'1,2, Mediaset perde l'1,1%. E allora grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere, Sole 24 Ore e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Allora, dicevamo del mercato dei cambi, mercato valutario. Volete sapere com'è messo, non tanto, ma com'è aumentato il prezzo dell'oro? Allora, più 28% dall'inizio dell'anno, anche l'argento in rialzo la settimana, è tornato ai massimi del 1980, l'once d'argento si attesta a $24,63, anche il platino $1,719 l'oncia, che vale, prima che me lo chiediate, 31,1 grammi, è l'oncia Troy. Allora, per quello che riguarda poi l'andamento delle valute, invece, attenzione, in questo momento non abbiamo nuovi record, siamo 1,40,60 nel rapporto euro-dollaro. Che cosa ha contribuito a portare l'oro a un livello così alto? Sì, la debolezza del dollaro, ma non solo, perché la richiesta di oro, la richiesta effettiva di oro a livello mondiale nel secondo trimestre 2010 è aumentata del 36%, 1050 tonnellate, pari a $40 miliardi in valore. Chi sta chiedendo e domandando tutto quest'oro? Indovinate un po', Cina e India, e poi invece anche la speculazione alla sua parte. La domanda di oro da parte dei fondi ETF specializzati è aumentata nel secondo trimestre 2010 del 414%, e è un po' quello che capitò prima dello scoppio della crisi col petrolio. Ricordate il petrolio a $140-150 al barile. Bene, ci sono elementi sufficienti per parlarne, però dopo il nostro GR 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per chiudere l'approfondimento sull'oro a record anche oggi, due volte, tre volte, e i cambi, il dollaro a minimi storici nei confronti della moneta, anche della moneta cinese, yuan, dal 1993, da quando è stata resa moneta di mercato, non era mai stata così forte nei confronti del dollaro, dollaro ai minimi anche da 15 anni nei confronti del franco svizzero e ai minimi con lo yen e con l'euro. Nel frattempo appunto l'oro va ai massimi. Devo leggere un messaggio che vi leggo così come è arrivato, non ne dubito, ma insomma dice che la quantità d'oro al mondo corrisponde a circa 10 milioni di metri cubi, capisco così, e in sostanza che è stata già venduta 4 volte. Penso che il riferimento sia a quanto abbiamo raccontato sul numero di operazioni fatte sull'oro in questo periodo. Sì, non ci sarebbe tra virgolette nulla di strano, perché il 40 miliardi di dollari in valore, le mille, cosa sarebbero a significare? È chiaro che tu hai un valore, parliamo, hai un chilo o un'oncia di oro, che poi è vero che può passare di mano 4 volte e aumentare valore a parità di oncia, questo fa parte anche della leva speculativa. Comunque, Roberto Mihajlić, responsabile di ricerca cambi di Banca Unicredito, buonasera. Buonasera. Una delle nostre voci quando parliamo di cambi. Le risulta questo dato sull'oro? So che lei si occupa di valute e non di oro, ma le torna? Ma diciamo che ci siano stati notizie che anche le banche centrali siano tornate in qualche modo a comprare oro, come in particolare quella del Vietnam. Sì, le quantità mi sembrano comunque molto molto molto ingenti e potrebbero comunque spiegare anche comunque il fatto che l'oro continua in qualche modo a essere fortemente comprato sui mercati, insomma, anche per come, diciamo, riserva di valore in una situazione in cui i rendimenti sono molto bassi dovunque, ci sono prospettive di rendimenti sempre più bassi anche a causa del fatto che a partire dalla Fed le banche centrali stanno cominciando a considerare con più attenzione la questione del quantitative easing, e quindi tutto sommato che ci siano anche acquisti in maniera così ingente ci può stare. Allora, la chiederei di parlare con la voce più alta perché la sentiamo molto male. Prego, mi dica se mi sentiate meglio. Ecco, andiamo ai rapporti di cambio. Fermo restando che non abbiamo mai ritenuto l'euro debole quando era quota 1,15, adesso che è 1,40 sul dollaro invece è forte. Secondo le vostre previsioni, quando si fermerà il calo del dollaro? Il rischio è che il calo del dollaro possa persistere per un po', nel senso che il problema è che se effettivamente, come appare mai evidente, la Fed dovesse veramente iniziare a fare quantitative easing e quindi a comprare titoli di Stato già a partire dal meeting di novembre, questo dovrebbe in qualche modo, e proseguire nel percorso del 2011, questo dovrebbe comunque essere in qualche modo un fattore contro il dollaro in maniera persistente, almeno per i prossimi 12 mesi. Quindi per il momento diciamo che grossi spazi di correzione al calo del dollaro non se ne vedono, a meno che ovviamente non ci siano segnali di forte recupero dell'economia americana o che torni in maniera molto netta un ritorno forte dell'avversione al rischio che porti di nuovo il dollaro a recuperare, come abbiamo già visto. Però per il momento la questione del quantitative easing della Fed rimane il fattore determinante. Cioè la Fed che stampa moneta per comprare debito americano, possiamo dire? Sì, sostanzialmente sì. Sostanzialmente. Allora, domanda che ci viene posta molte volte. Perché continuate a dire che l'oro si è rafforzato mentre non dite mai il valore in euro? Attenzione, l'euro da inizio anno sul dollaro ha anche perso qualcosa, meno 3%, nel 2009 ha fatto più 3,5%, per cui l'euro diciamo è sui livelli di inizio anno, mettiamolo in maniera un po' grezza. È l'oro che ha aumentato, non c'entra niente la debolezza del dollaro questa volta. Attenzione, non è come col petrolio in cui c'è una corrispondenza quasi automatica: quando il dollaro si indebolisce il petrolio sale, in queste cagioni no, perché c'è poca domanda, ma qui è proprio il 24% in più, il 36, tra il 24 e il 36% in più che ha segnato l'oro dall'inizio anno è tutto fatto dall'oro, non l'ha fatto in rapporto, diciamo, all'euro-dollaro. Qual è la moneta che vedete maggiormente soffrire di questa debolezza del dollaro? L'euro, lo yen? Un po' quasi tutte, diciamo, sono le monete per cui l'export è comunque un motore importante per la crescita, quindi sicuramente il Giappone, lo stanno diventando anche le commodity currency come il dollaro australiano, e lo stesso, diciamo, anche se non ai livelli correnti, ma comunque anche l'euro, in qualche modo il rafforzamento dell'euro certamente non fa più di tanto bene all'Europa, soprattutto non fa bene alla Germania, che ha visto soprattutto nella prima parte dell'anno, e come si è visto poi nei dati del secondo trimestre, un forte balzo della crescita trainato soprattutto dalle esportazioni. Non siamo ancora su livelli che possono mettere in qualche modo in pericolo la crescita europea, però è chiaro che l'apprezzamento dell'euro ha tolto indubbiamente un vantaggio che c'era stato nella prima parte dell'anno, quindi in qualche modo tutto sommato certo che quando eravamo arrivati a 1,15 rispetto a 1,40 hai circa un 20%, sì, poco meno di prezzi inferiori quando vai a vendere sui mercati. Quindi mi dà un livello, come sempre facciamo, a che mi dia il dollaro da qua a fine anno, da qua a inizio anno? Da qui a fine anno, guardi, molto si giocherà subito dopo novembre, quando la Fed farà sapere al mondo quali sono state le sue intenzioni sul quantitative easing. La nostra idea è che probabilmente subito dopo ci potrebbe essere anche un temporaneo recupero del dollaro, perché questo fattore verrebbe ormai prezzato dal mercato, però insomma, come dicevo all'inizio, la prospettiva di avere una Fed comunque con una politica monetaria ancora più espansiva di quello che si poteva pensare, è una Fed e una BCE che comunque sta lanciando segnali volti ad assorbire tutta una serie di misure straordinarie che erano state poste in essere fino adesso, gioca ancora a favore dell'euro. Diciamo che la nostra previsione attuale a fine d'anno è per un valore attorno a 1,43. Qualche previsione sull'oro l'avete mai fatta? Pensiamo che possa salire ancora, diciamo, in questo momento non vediamo motivi per cui la risalita dell'oro possa in qualche modo ritornare. Quindi se io le dicessi quota $2,000 l'oncia, lei mi prenderebbe per pazzo, ubriaco o con un po' di senso? Certamente è una previsione aggressiva, mettiamola in questi termini. Però il trend di rafforzamento non ci sembra in questo momento destinato a esaurirsi, a meno che non ci sia un sentiment, un cambiamento dei driver dominanti del mercato, che vedono comunque oggi l'oro anche come bene rifugio in momenti di incertezza, perché questi sono ancora momenti in cui il quadro internazionale non è certo chiaro. Quando internazionale è tutto tranne che chiaro, sì, grazie. Va bene. Comunque a Roberto Mialic, responsabile appunto del ricerca cambi per Banca Unicredito. Adesso il traffico, siamo leggermente in ritardo, e poi di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. E allora, mentre l'oro è a record, l'euro è purtroppo molto forte, da 9 mesi che non era così forte, a 1,4058 sul dollaro, e il ministro Tremonti ha blindato la finanziaria, creando appunto, come abbiamo raccontato in apertura, lo sconforto del ministro dell'agricoltura Galan, che ha detto non ci sono soldi. Anzi, la voglio rileggere la frase di Galan, perché gli è stata rubata dopo un incontro con il ministro. La finanziaria è una tragedia, il problema è che non ci sono soldi. Domani il mondo delle piccole imprese italiane, cioè il 99,5% per essere precisi, dei 4 milioni di 5 milioni di imprese italiane, si incontrerà con i delegati soprattutto nel convegno annuale organizzato dalla piccola industria di Confindustria a Prato, luogo simbolico di cui spesso ci siamo occupati, proprio perché è uno dei luoghi che ha più sofferto la globalizzazione, la concorrenza cinese fuori e dentro le mura di casa. Siamo in collegamento col presidente della piccola industria di Confindustria, nonché vicepresidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, se ho ben capito, domani si parlerà di un tema che potrei provare a declinare così. Tra l'altro saranno presenti il presidente dell'ABI Mussari domani e sabato, il vicepresidente della Commissione Europea Tajani, Enrico Letta del PD, Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, Nichi Vendola, e poi chiuderà i lavori sabato la presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Ma dicevo, e vi sarà il ministro welfare Sacconi. Potrebbe essere declinato così: da un lato le piccole imprese italiane, pur con estrema difficoltà, con grosse sofferenze, con cassa integrazione, ma insomma hanno tenuto, non c'è stato lo tsunami che si temeva nel 2008, e hanno tenuto anche, come vediamo dai dati sull'export, in maniera più che buona. Dall'altro però è chiaro che adesso, superata la fase, diciamo, del tener botta, nella fase propositiva voi vi trovate con un piccolo problema che si chiama: il mondo non è, la terra non è piatta, è semplicemente più lunga, nel senso che la ripresa arriva da Cina, India, Brasile e aree molto molto distanti, e qui nascono i problemi, Bocce, perché voi siete piccoli e non avete le strutture interne per quella che si chiama filiera lunga, rete lunga, capitali, cioè tutto quello che serve per andare in questi paesi. Che soluzioni pensate di proporre, o di che soluzioni pensate di dibattere da domani a Prato? Beh, noi partiamo dal concetto che i mercati si contraggono ma le geografie si allargano, e i mercati più interessanti per noi sono quelli più lontani, proprio appunto il Far East, Asia, India, Cina e poi Brasile e anche Mediterraneo. E su questo quindi una politica di internazionalizzazione che porti a fattor comune il Made in Italy anziché polverizzarlo, e una politica fiscale vicino ai produttori, intendendo per tali le imprese e i lavoratori. Ricordiamo che siamo ancora il paese numero 2 d'Europa in termini di manifatturiero, e abbiamo necessità di esprimere un alto livello di export per attrarre ricchezza al suo interno. Allora, mi faccia capire, quando lei dice porre a fattor comune il Made in Italy, che cosa intende sostanzialmente? Intendiamo per esempio evitare di dover, come dire, seguire e vedere molte volte un made in varie regioni anziché un made in Italy. Il mondo ci percepisce nello stile nel made in Italy e non ci percepisce con il made in qualsiasi regione d'Italia. Quindi ritornare, diciamo, a vendere ciò che siamo e che il mondo ci invidia è il primo elemento su cui dovremmo riflettere e trovare un elemento che congiunge le varie politiche delle regioni all'interno di una politica nazionale. Ma per essere ancora più chiari, voi volete, temete che il federalismo poi possa portare a iniziative ancora più su base regionale e che non si arrivi a una definizione, non so, io lo chiamo sportello unico per il nostro export, una cosa del genere, una cosa anche per avere un interlocutore unico quando un paese, magari un paese del Mediterraneo, la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto o anche un paese più distante vuole interloquire con l'Italia, trova un insieme di soggetti, non ne trova uno solo. Noi dobbiamo evitare appunto questa confusione, quindi evitare, come dire, nuovi centralismi a un solo centralismo, e quindi la misura della internazionalizzazione del paese è una questione nazionale secondo noi, e proprio in quanto questione nazionale, come accade ad esempio in Germania, deve essere analizzata e risolta come tale. Individuare i paesi in cui il tessuto imprenditoriale italiano ha interesse insieme al paese e realizzare delle missioni e delle, come dire, politiche comuni, evitando che si passi da un centralismo a più centralismi. In questo, se appunto questo non accade, diventa un elemento di grande fattore comune, e evita anche di confondere sia coloro che vogliono investire in Italia sia coloro che volessero acquistare prodotti e servizi del nostro paese. Allora, mi dica brevemente dal punto di vista fiscale invece cosa chiedete per il mondo della piccola e appunto per la sua internazionalizzazione, per aumentare la presenza verso l'export. Domani nella sostanza chiederemo una piattaforma di alcuni punti che potrei sintetizzare in questo: una riforma fiscale a favore dei produttori e che parta, diciamo, da una considerazione che faccia passare il concetto di imposizione fiscale da imposte dirette a indirette, dalle persone alle cose, per aiutare il tessuto imprenditoriale italiano a essere sempre più competitivo rispetto a competitors che sono sì nel mondo, sono lontani ma sono anche molto vicini. Parliamo degli amici del Mediterraneo, ma parliamo anche della Svizzera, che comincia a fare politiche fiscali molto attrattive per attrarre appunto investimenti. Ecco, visto che chiedete uno sportello unico, insomma un Made in Italy unico, agevolazioni fiscali, che cosa offrite in cambio? Perché i piccoli devono anche interrogarsi sulle dimensioni, Boccia. Assolutamente, noi faremo, diciamo, una riflessione a tre punti: quello che dovremmo e possiamo fare noi, quello che possiamo fare noi insieme al sindacato e alle banche, quello che chiederemmo o che pensiamo e che abbiamo, come dire, aspettativa in termini di politica, quindi chiederemmo alla politica. Quello che dobbiamo fare noi, perché è un atto di sopravvivenza per le imprese italiane, è la questione di alleanze e di partenariati. Possiamo, come dire, crescere e diventare grandi restando piccoli, alleandoci tra di noi. Questa è una grande sfida, perché ci fa uscire oltre a quella dimensione di export, ed è un atto di sopravvivenza. Chi non lo farà di noi evidentemente non avrà futuro, quindi la questione non è solo di teoria o di invito culturale, ma di sopravvivenza. Primum vivere. Grazie, in bocca al lupo per la due giorni di convegno a Prato al vicepresidente di Confindustria e presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Arrivederci. Allora, volete sapere cosa fa Wall Street? Meno 0,36%, poco mossa, euro sempre vicino a quota 1,41, ma non più 1,41, a 1,40,57 sul dollaro. Giuseppe Cruciani, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, vediamo se indovino. I serbi Santoro, che accusano l'Italia della disorganizzazione di Genova. Santoro, che stasera forse vuole portare lo scontro con Masi alle ultime conseguenze, alle estreme conseguenze. Masi oggi in un'intervista al direttore generale dice: se mi attacca lo licenzio. E vabbè, allora vedremo anche cosa succederà questa sera. Questi temi della Zanzara tra pochi minuti in diretta dalla D24. Noi invece ci risentiamo domani, saremo in diretta Deborah Rosciani con Focus Economia dalle 17 in poi da Prato, dal forum della piccola industria di Confindustria. Per ora da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, e visto che ci sono anche di un buon fine settimana, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Radio 24, la passione si sente.